Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata, come amo dire, se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo il mio blog, si chiama Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore o attraverso un qualunque motore di ricerca. Ieri abbiamo cominciato il nostro cammino nella memoria in occasione di uno dei più tragici eventi che ha vissuto il nostro paese. Un evento che ha stuprato la memoria di molti di noi, come ci ricordava ieri Giulio Cavalli, uomo di teatro, che abbiamo ascoltato proprio perché c'è un filo rosso che lega la mafia al sud e la mafia al nord, Cosa Nostra in Sicilia e Cosa Nostra a Milano, l'Andrangheta a Crotone e l'Andrangheta in Lombardia. Oramai purtroppo la linea della Palma, come ricordava Leonardo Sciascia, si sta alzando e le mafie non sono più soltanto una questione meridionale, ma sempre più una questione settentrionale. Allora il ricordo di quella strage è presente in tutti noi, è presente in me, è presente, sono sicuro, anche in voi, cari radioascoltatori, e come abbiamo fatto in occasione della strage di Capaci, quando abbiamo dedicato alcune puntate in memoria di quelle vittime, stiamo facendo la stessa cosa proprio per onorare la memoria di Paolo Borsellino e di quanti persero la vita in quella terribile strage. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il fratello di Paolo Borsellino, Salvatore Borsellino. Buongiorno Salvatore. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora io intanto, come ho fatto ieri ricordando il sito giuliocavalli.net del nostro amico Giulio Cavalli, uomo di teatro vero, di impegno civile e sociale, ricordo il sito in memoria di Paolo Borsellino, che è 19 luglio 1992. Un sito semplicissimo da ricordare, una data tragica che sono sicuro sarà nella vostra memoria così come nella mia. Vi invito a leggerlo perché è al tempo stesso bello e straziante. 19 luglio 1992. Allora, con Salvatore Borsellino io vorrei parlare di quella che è una fissazione sua. È una fissazione nostra, perché è una pagina nera della nostra storia patria. Il 18 luglio, domani, a Palermo, ci sarà la marcia delle agende rosse. Tutti coloro i quali parteciperanno in testa Salvatore Borsellino avranno in mano un'agenda rossa. Ecco, Salvatore, può spiegarci il senso di un'agenda rossa sventolata domani a Palermo? Io ho voluto per domani fare questa marcia che, partendo da Via D'Amelio, un luogo per me sacro, un luogo simbolo di quella strage, arriverà fino al Castello Ottveggio, che è quel castello che da uno sperone del Monte Pellegrino sovrasta Palermo e che è perfettamente visibile da Via D'Amelio, e inversamente ovviamente da quel Castello Ottveggio si può, con un qualsiasi binocolo da teatro, guardare il portone di Via D'Amelio al numero 19. L'agenda rossa sarà un simbolo per ricordare, per protestare contro il fatto che per il furto di quell'agenda rossa, per la sottrazione di quell'agenda rossa, che è stato fatto da un a mio avviso dal capitano Arcangeli, non si è potuto ancora svolgere un processo, nel senso che quando, dopo una serie infinita di archiviazioni, di riprese di quel processo, si era finalmente arrivato alla fase dibattimentale del processo, purtroppo un giudice per l'udienza preliminare, nell'udienza preliminare del processo, ha assolto il capitano Arcangeli per non aver commesso il fatto, con delle motivazioni secondo me assurde. Ecco, io vorrei entrare un po' meglio dentro questa storia. Allora, ricordiamo che il giudice Paolo Borsellino non si discostava mai da una borsa e da una agenda dove segnava tutto ciò che serviva alla sua vita di magistrato. Questa agenda rossa, di cui noi abbiamo parlato anche lo scorso anno con gli autori di uno splendido libro per Chiare Lettere, che sono i colleghi Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza, non è stata più trovata. Ci sono delle immagini fotografiche che ritraggono il colonnello dei carabinieri Giovanni Arcangeli con questa agenda, ma poi in base ad una serie di testimonianze che lui ha reso con vuoti di memoria, con, come dire, in mente le immagini di quella strage, è arrivato davanti al giudice per le indagini preliminari, come ci raccontava Salvatore Borsellino, alla fine del marzo 2008, e lì ha ottenuto un'archiviazione pressoché definitiva. Questo lo dico, Borsellino, per ricostruire un minimo la vicenda. Allora, veniamo all'oggi, dunque, dopo aver fatto questo minimo di ricostruzione, Borsellino. Intanto una curiosità, ma questo colonnello dei carabinieri Giovanni Arcangioli, mandato definitivamente assolto dal GIP di Caltanissetta Paolo Scotto, oggi dove presta servizio? Innanzitutto vorrei fare una precisazione: non esistono solo immagini fotografiche, esistono anche delle riprese di una telecamera che era sul lato opposto di via Lamelio rispetto al numero 19, che mostrano l'allora capitano Arcangioli che si allontana dalla macchina di Paolo, che era ancora in fiamme, con quella borsa in mano. E queste immagini sono molto significative, perché vedete, il capitano Arcangioli è stato assolto dal GUP Paolo Scotto per non aver commesso il fatto, cioè per non aver sottratto l'agenda, dopo aver dato tutta una serie di versioni discordanti rispetto alla sottrazione di quella borsa, al prelievo di quella borsa. Ha detto prima che l'aveva aperta insieme al giudice Ayala e che avevano verificato che l'agenda rossa non c'era. Poi il giudice Ayala l'ha smentito nella maniera più categorica in un confronto diretto. Ha detto poi che l'aveva consegnata al giudice Teresi. Il giudice Teresi non era assolutamente presente fisicamente in via D'Amelio. Poi ha dato tutta una serie di altre testimonianze discordanti, che non sono quindi solo dei voti di memoria, sono proprio testimonianze che si contraddicono tra di loro. Ecco, ha fatto benissimo a ricordarlo questo, perché effettivamente io ho sintetizzato ricordando soltanto le immagini fotografiche, ma ha fatto bene lei a ricordare che ci sono anche delle riprese filmate, così come ha fatto bene a specificare che si allontanò fisicamente dal luogo non con l'agenda rossa in mano, ma proprio con la borsa di suo fratello in mano. Ecco, ma le chiedo, una delle cose che io non sono riuscito a capire in questi anni, nonostante l'avessi fatta la stessa domanda lo scorso anno ai colleghi che hanno curato questo libro, è che fine abbia fatto questo colonnello Giovanni Arcangioli, perché la mia sensazione, mi corregga se sbaglio Borsellino, è che sia coperto benissimo in questo momento, cioè sia letteralmente sparito dall'agenda politica italiana. Il capitano Arcangioli non è sparito, oggi insegna in una scuola allievi ufficiali dei carabinieri di Roma. Ovviamente ha avuto intanto degli avanzamenti di carriera, come spesso succede a personaggi implicati in certe cose, come è successo al Pietro Giammanco, che era il capo di Paolo, che è stato sì trasferito da Palermo ma promosso di funzione, e questa è una cosa che spesso si ripete in questi accadimenti. Ecco, io vorrei ricordare però proprio quelle riprese di una telecamera di cui parlavo prima, perché la giustificazione che ha portato il capitano Arcangioli nell'udienza preliminare del processo in cui poi è stato assolto era il fatto che ha detto di essere così sconvolto da aver dovuto camminare in mezzo alle pozzanghe di sangue, in mezzo ai pezzi dei ragazzi della scorta di Paolo, che non può ricordare che cosa effettivamente ha fatto quel giorno. Ecco, io invito tutti ad andare sul mio sito, che è 19 luglio 1992, però attenzione, .com, non .com, certo, .com. E guardare queste riprese, voi vedrete una persona che si allontana dalla macchina di Paolo camminando speditamente, guardandosi intorno, e non è assolutamente alla faccia di una persona sconvolta. A mio avviso, io continuo a guardarlo con le riprese, mi sembra l'immagine di una persona che sta svolgendo un'azione di guerra, sta svolgendo un incarico ben preciso. In effetti questo è, credo, quello che stia facendo, perché vedete, uccidere Paolo Borsellino senza entrare in possesso o fare sparire in qualche maniera quella gente non sarebbe servito a nulla, perché Paolo, come ricordava lei prima, quella gente l'aveva sempre con sé. Ci sono parecchie riprese di Paolo, di interviste di Paolo, per esempio la famosa intervista che prestava ai giornalisti francesi, Calvi e Moscardò, quell'intervista che quasi nessuno ha visto in Italia, nella quale si vede benissimo la gente rossa che ha vicino, la si vede in tante altre occasioni, e Paolo l'aveva sicuramente con sé il primo luglio del 1992, quando stava interrogando Mutolo, Gaspare Mutolo, che gli stava facendo delle rivelazioni sconvolgenti. Era il primo collaboratore di giustizia che parlava delle infiltrazioni della criminalità organizzata all'interno della magistratura, all'interno delle forze dell'ordine, all'interno dei servizi segreti. E Paolo l'aveva sicuramente con sé quell'agenda nel momento in cui disse a Mutolo: mi ha telefonato il ministro, manco due ore e poi torno. Poi Paolo si recò dal ministro Mancino al Viminale, e di quello che successe in quella stanza noi non sappiamo nulla, perché il ministro Nicola Mancino nega addirittura di aver avuto quel colloquio. Io, con la morte nel cuore, termino questa trasmissione, questa puntata. Chi mi segue, non soltanto in radio ma anche sulla carta stampata, sa con quanta passione seguo queste vicende, e non ho molto altro da aggiungere. Ringrazio Salvatore Borsellino. Grazie a voi. E Roberto Galluno vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata, non senza aver ringraziato Filippo Oreggi e Laura Fagin in redazione. Grazie e buona giornata.